ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come avete sentito nel GR, sono successe molte cose di notte, quindi i quotidiani hanno un po' rincorso la cronaca e cercato di titolare su quelle che erano le anticipazioni su queste misure, che poi tra l'altro sono state in gran parte confermate. Ma oggi avremo altri aggiornamenti per quanto riguarda sia l'eventuale nuovo DPCM, eventuale quasi certo, che ulteriori misure economiche. Il Sole 24 Ore si concentra sulle cartelle fiscali. Stop ai pagamenti, titolo in prima pagina della Sole 24 Ore, CIG Covid estesa fino a dicembre. Per quanto riguarda la legge di bilancio, appunto nel Consiglio dei Ministri che c'è stato, un decreto e il documento programmatico di bilancio. Scontro su plastica e sugar tax, in manovra 10 miliardi a nuovi aiuti, 4 alla sanità, 6 all'istruzione. Decontribuzione totale per i neoassunti under 35. La foto è dedicata al derby, che c'è stato ieri, un derby naturalmente anomalo perché c'era pochissimo pubblico, come è in questa era Covid dello sport giocato. Il derby, intendiamo il derby tra Milan e Inter. La foto è appunto, vede Ibrahimovic in primo piano che ieri ha fatto 2 gol, ma viene anche richiamata la pagina di Sport e Business oggi con un articolo di Marcello Frisone che spiega come nel mirino dei fondi di private equity adesso ci sia anche lo sport. Il Corriere della Sera: Conte non vuole misure estreme, quindi vedete, bisogna tutti, insomma, i quotidiani hanno dovuto un po' fare i conti con questo limite temporale che per forza hanno. Il Sole 24 Ore di ieri chiuso alle 23:45, il Corriere della Sera suppongo più o meno la stessa ora, idem per gli altri. Quindi appunto, per gli aggiornamenti guardate i siti o restate sintonizzati su Radio 24. La foto di prima pagina del Corriere della Sera è dedicata a Samuel Paty, insegnante di storia e geografia, decapitato a Conflans, che è un piccolo paese a nord di Parigi. Aveva 47 anni, era sposato con un figlio e questo è successo 2 giorni fa e giustamente si continua a parlarne, a cercare di capire. Tra l'altro, la notizia di ieri è che sono stati fatti 9 arresti per questo assassinio e tra i fermati c'è anche il padre di un allieva di Samuel Paty. Stefano Montefiori racconta poi a pagina 16 appunto gli aggiornamenti dalla Francia. La Repubblica: per ripartire 40 miliardi, il Consiglio dei Ministri esamina la manovra di bilancio, ma è scontro nel governo sulle tax, il riferimento è a quella sugar tax e plastic tax, stop intanto alle cartelle esattoriali, divieto di licenziare per le aziende in CIG, taglio del costo del lavoro al sud. Anche in questo caso la foto è dedicata al derby di ieri, in primo piano anche qui c'è Ibrahimovic, 39 anni, che nelle 2 partite che ha giocato in Serie A ha segnato 2 doppiette, perché sapete che era risultato positivo al Covid, quindi ha fatto la sua quarantena. L'Olimpo del calcio e i comuni mortali. I due consueti interventi richiamati in prima pagina sulla Repubblica di domenica, quello di Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore della Repubblica, una chiave che apre la porta del tempo, e Scalfari ci annuncia che da questa domenica non parlerà più di fatti di cronaca, ma della vita. Mentre Maurizio Molinari, lezioni di Oriente, come convivere con il Covid-19, e il direttore di Repubblica prende in esame appunto la Cina, ma non solo, tutti i paesi dell'Asia che hanno avuto la prima ondata di Covid e poi hanno avuto strategie diverse. Ora appunto c'è questa che Maurizio Molinari chiama convivenza. La Stampa: il governo allunga la CIG e scontro sul coprifuoco. La Stampa poi un'intervista a Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che dice: una scuola a distanza è dimezzata, non capisco Gualtieri. E quindi continua un po' la non facile convivenza di queste forze di governo, tra le quali c'è anche Italia Viva. La foto è dedicata a quelli che vengono definiti due fenomeni venuti dal Piemonte. Una scia, l'altro corre in bicicletta. Magica Bassino, che ha vinto ieri, Marta Bassino, il primo gigante della Coppa del Mondo di sci, e invece l'altro fenomeno venuto dal Piemonte, Filippo Ganna, re della cronometro, naturalmente al Giro d'Italia. Una interessante analisi su questo caso del professore decapitato in Francia, lo ricordiamo, da un ragazzo di 18 anni di origini cecene, di fede islamica. L'analisi di Michela Marzano, il coraggio di insegnare la libertà. Michela Marzano, tra l'altro, insegna a Parigi e si chiede: adesso che cosa faccio con i miei studenti quando arrivo al capitolo libertà di espressione? Dico loro che è un cardine delle nostre democrazie liberali e che quindi non la si può né sopprimere né restringere, a meno che non ci si trovi di fronte all'incitamento all'odio, all'apologia dei crimini contro l'umanità o alla diffamazione? Oppure taccio per non mettermi in pericolo? Come spiegare loro quello che è successo l'altro ieri a Conflans-en-Honorine, il piccolo comune a nord-ovest di Parigi, dove un insegnante è stato decapitato? Lo ripeto perché è impressionante, le foto del cadavere senza la testa di questo insegnante di 47 anni e poi l'assassino che porta con sé la testa, la filma e la mette sui social. Quindi il piccolo comune dove un insegnante è stato decapitato da un terrorista islamico per aver mostrato in classe alcune caricature di Maometto. Il presidente Macron, commentando a caldo questo macabro assassinio, ha detto che l'insegnante è stato ucciso perché insegnava la libertà di credere e non credere. E poi continua l'articolo a pagina 23. Il Messaggero, il Premier frena mini stretta, naturalmente il tema è quello di come verranno sì inasprite ma non in modo drastico le misure anti-Covid. La fotonotizia però è dedicata a Jacinda Ardern, è la Premier della Nuova Zelanda che è stata rieletta. Mi ricordo qualche settimana fa avevamo sentito a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi, un brano del dibattito civilissimo tra Jacinda Ardern e la sua principale rivale a queste elezioni. Non era sicurissimo che Jacinda Ardern vincesse e invece ha stravinto. Tra l'altro ricordiamo, la Nuova Zelanda certo ha una popolazione molto inferiore a quella di tanti altri paesi, Italia compresa, comunque per Covid sono morte 25 persone. Avvenire, un doppio contagio, positivi ancora in salita, pressione sugli ospedali, ma il doppio contagio perché? Perché dalla Caritas arriva una fotografia del crescente disagio sociale. I poveri sono aumentati del 14% e in un caso su due hanno un volto nuovo, italiani, giovani e donne. E poi il tema dell'assegno unico, sia l'assegno unico partirà a metà 2021, questo naturalmente l'assegno unico per i figli. A regime ci saranno 6 miliardi aggiuntivi. Il Fatto Quotidiano, basta panico, dati seri ma non come a marzo, e c'è questo confronto tra i dati di ieri e quelli di marzo. Casi giornalieri, quindi ieri sono stati, sapete, quasi 11.000, mentre a marzo erano quasi 6.000, però i tamponi ieri 165.000, a marzo 33.000. E poi la proporzione importante tra i contagi giornalieri e i tamponi, 6,58% ieri, 18,05% il 27 di marzo, il numero delle persone in terapia intensiva, 705 contro le 3.732 di marzo, i ricoveri ordinari per Covid, 6.000 ieri, 26.000 a marzo, i morti ieri 47 a marzo, il 27 di marzo in un solo giorno quasi 1.000. Importanti questi numeri, poi vanno naturalmente anche esaminati in particolare il rapporto tra contagi giornalieri e tamponi, perché ne venivano fatti appunto molto pochi, e ci hanno spiegato molti virologi che quello che si vedeva a marzo e si cercava di censire, diciamo, con i tamponi era solo la punta dell'iceberg. In ogni caso, in effetti, il confronto credo soprattutto importante è il numero delle persone in terapia intensiva, perché ricordiamolo sempre, purtroppo, quando si arriva in terapia intensiva e si viene attaccati a un respiratore, poi le possibilità di uscire dalla terapia intensiva e soprattutto di uscirne in condizioni che permettano di tornare a una vita normale sono molto basse. Domani il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, che ha compiuto da pochi giorni un mese, perché il primo numero era in edicola il 14 di settembre, come sempre ha due articoli in prima pagina, e oggi sono uno del direttore Stefano Feltri, che titolato "Avremmo dovuto prendere i soldi del MES, però non li abbiamo presi, quindi purtroppo a posteriori, adesso vedremo cosa succederà con questo MES", e poi il pezzo principale, che è un po' la cronaca di quello che è successo ieri: "Così si rischia davvero il lockdown di Natale". Il giornale: "Chi paga il conto dei ritardi? Pronta la stretta". Il governo, immobile da mesi, oggi vara la stretta per locali, sport e scuola. A rimetterci saranno come sempre i lavoratori autonomi. La fotonotizia è dedicata a Ibrahimovic, che ieri appunto Zlatan Ibrahimovic, 39 anni, giocatore di punta del Milan, ha segnato 2 gol nel derby contro l'Inter, che quindi è stata battuta 2-1. Ibra si vendica dell'Inter, il Milan è solo in vetta. Libero: "Coraggio, arriva il vaccino". Il virologo Burioli è ottimista. Fra un mese l'americana Pfizer, la multinazionale Pfizer, potrà avere l'autorizzazione a produrre il siero anti-Covid. Di Maio annuncia le prime dosi pronte per fino a novembre, da gennaio le somministrazioni. È una questione delicatissima questa del vaccino. Le dichiarazioni di Burioni, che è un virologo, va bene. Quelle di Di Maio, ministro degli esteri, forse un po' più azzardate. È la seconda volta che parla di queste prime dosi pronte per fine novembre. L'Agenzia Europea del Farmaco ha detto che bisogna andare molto calmi, che non assicura assolutamente che ci sarà l'autorizzazione. Pfizer forse avrà l'autorizzazione in America dell'FDA, quindi davvero suggerirei su questo tema, visto poi che siamo uno dei paesi con i Novax più agguerriti, di andare un po' cauti su questa questione del vaccino per il Covid. Ricordo anche che è stata interrotta la sperimentazione di quello di Johnson & Johnson, che invece altre sperimentazioni sono state interrotte in via cautelativa, quindi appunto calma e gesso su questa questione del vaccino, perché credo che in questo momento, dove già si diffonde anche comprensibilmente la paura, diffondere false speranze credo sia altrettanto pericoloso. Poi un'intervista richiamata in prima pagina al Cardinal Ruini di Alessia Ardesi, che inaugura una serie di interviste di Libero. Questa viene titolata "Ecco cosa succede dopo che siamo morti". La verità: sul Covid Conte e i suoi litigano e fanno danni pure stando fermi. La foto è quella del padre di Matteo Renzi. Ultimo mistero Consip: l'amico di Babbo Renzi e la strada in Kazakistan, un'inchiesta di Fabio Amendolara che poi trovate a pagina 13. Ultima prima pagina, poi ci lasciamo un attimo per una pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, quella del Manifesto: la crescita, il riferimento è allo stesso dato che riferiva Avvenire, cioè che secondo il rapporto Caritas 2020 la pandemia in Italia ha messo in ginocchio giovani e famiglie senza più lavoro. Boom di richieste, prese in carico oltre 450.000 persone, una su due ha chiesto aiuto per la prima volta. Ecco l'identikit dei nuovi poveri: donne, minori, partite IVA e precari. Ci lasciamo un attimo, ci troviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ci spostiamo nelle pagine interne e torniamo sul Sole 24 Ore. E vi segnalo questo approfondimento: la notizia c'è su tutti i giornali, ma qui c'è un risvolto in più. La notizia è quella che Cassa Depositi e Prestiti chiede più tempo per Aspi, la famosa vicenda di Autostrade. Oggi ci sarà una call informale, ci racconta Laura Galvagna, pagina 9 del Sole 24 Ore, del CDA di Cassa Depositi e Prestiti. Servono altri giorni per presentare la proposta di Atlantia. I fondi esteri devono completare i passaggi tecnici e sciogliere il nodo governance. Ma intanto, appunto ci racconta Laura Galvagni, Telepass è stata ceduta, il 49% di Telepass è stata ceduta a Partners Group. Lo schema dell'offerta tramite un unico veicolo partecipato da Cassa Partner Italiani e fondi esteri. L'ingresso del fondo in Telepass, un deal da oltre 1 miliardo per sviluppare la piattaforma a livello europeo. E poi vi segnalo molto interessante l'analisi di Luca Salvioli sui risvolti o comunque la lettura, guardando da Wall Street, della corsa alle presidenziali americane. Commercio e green, il listino Biden per Wall Street. Gli analisti di FinScience hanno tradotto in una serie di indicatori programmi, temi e popolarità dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti, collegando una loro eventuale vittoria alle prospettive dei vari settori industriali. E poi c'è anche un altro approfondimento, perché noi ne sappiamo qualcosa di debito pubblico, ma intanto ci ricorda Riccardo Barlam nella stessa pagina, esplode il deficit americano, 3.100 miliardi di dollari. Naturalmente anche sui conti dello Stato americano pesa l'effetto Covid, con naturalmente l'iniezione di fondi, di pacchetti di stimolo, di soldi federali nell'economia messa in ginocchio dall'emergenza prima sanitaria, che poi appunto è diventata economica. La serie a tu per tu di incontri: Vincenzo Chierchi ha incontrato Matteo Lunelli, che è il numero uno di Cantine Ferrari di Trento ed è anche presidente di Fondazione Alta Gamma, e in questa doppia veste dice: l'alto di gamma non può avere come obiettivo unico il profitto. Il numero uno delle Cantine Ferrari è convinto che sia indispensabile creare valore per tutti gli stakeholder, questa parola ormai diffusa anche in italiano, perché in italiano è una parola inglese naturalmente, perché è difficile tradurla in un'unica parola nella nostra lingua. Comunque letteralmente è chi porta un interesse, to hold a stake, quindi tutte le persone che hanno in qualche modo un interesse in un'azienda, quindi sia naturalmente chi la conduce, ma anche le persone a cui si rivolge, o il territorio, chi abita il territorio in cui l'azienda opera. Quindi, dice Lunelli, occorre portare benessere, sicurezza e bellezza ai territori che ospitano le imprese. Vi dicevo l'approfondimento di Marcello Frisone nella consueta pagina della domenica di Sport e Business sui fondi che hanno investito nello sport 13 miliardi di dollari. Da oltre 1.000 miliardi di dollari di patrimonio complessivo, i maggiori operatori mondiali hanno direttato sul settore l'1,26%. I più attivi in termini di numero di operazioni, 11 su 21, sono americani. E poi vi segnalo le pagine di Lifestyle della domenica del Sole 24 Ore. Sara Deganello dedica, questo è il pezzo della cover, l'artigianato di qualità è la scuola dei designer. I mercati di nicchia, i giovani talenti attingono dalle lavorazioni tradizionali per poi rivoluzionare il prodotto finale. Ancora una volta il valore delle traduzioni e del know-how artigianale in Italia, che non è, come in questo caso si dimostra, non è isolato da altri tipi di modelli di business. E poi siamo in autunno, la stagione del foliage, energia da foliage, quelle sfumature che fanno meditare. Maria Teresa Montaruli racconta: spirito d'autunno, nel pre-inverno ogni foglia va osservata come se fosse un fiore, ecco i luoghi dove fare scorta di calore. Dalle pagine del Corriere della Sera, appunto, vi dicevo l'approfondimento di Stefano Montefiori sulla vicenda dell'insegnante assassinato, decapitato. Quindi da una parte la cronaca, quindi anche con gli arresti, cercava il dialogo, non provocava, il dolore della Francia per il professor Paty. E poi un'intervista di Stefano Montefiori, sempre all'ex premier Manuel Valls: le vignette su Maometto a scuola e su tutti i giornali, non cediamo all'autocensura. Ma questo è un tema molto controverso, appunto, perché purtroppo tutte le volte che rispuntano quelle vignette su Maometto succedono queste tragedie. Ricorderete la strage appunto nel settimanale Charlie Hebdo, satirico, che aveva per primo pubblicato quelle vignette, ma poi soprattutto la strage nel teatro del Bataclan con circa 250 persone uccise. E Massimo Franco, che è anche autore di questo libro uscito a settembre, L'enigma Bergoglio, racconta, anticipa che il 22 ottobre ci sarà un annuncio congiunto con Pechino, così sarà rinnovato il patto sui vescovi, che sapete tanto scalpore ha destato negli Stati Uniti, tanto da suscitare le proteste del segretario di Stato, cioè equivalente del ministro degli esteri americano Mike Pompeo, che quando è venuto in Italia non è stato ricevuto dal Papa. In compenso è stato ricevuto dal nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio, che lo ha definito un amico. Nelle stesse ore, ripeto, in cui Mike Pompeo non veniva ricevuto in Vaticano. Comunque il 22 di ottobre, ci sarà questo annuncio congiunto con Pechino. Anche il Corriere della Sera parla di questa vittoria in Nuova Zelanda di Jacinta Ardern, un plebiscito nelle urne per la rivoluzione gentile ma decisa di Ardern, laburisti neozelandesi al 49%, quindi potranno probabilmente fare un governo monocolore. È molto interessante l'approfondimento di Alessandro Piperno nelle pagine della cultura del Corriere della Sera, la resistenza dei romanzi. È bello sapere che in questi tempi difficili i libri se la passano meglio del previsto, e sicuramente sapete un po' durante il lockdown, quando le librerie erano chiuse, tutte le piccole librerie si sono attrezzate per restare in contatto con i loro clienti e anche per portare a casa i libri, e poi naturalmente le grandi piattaforme, Amazon in testa, che hanno fatto per i libri, ma anche per tantissimi altri generi di prima necessità o non di prima necessità, hanno fatto naturalmente delle crescite a due cifre. A proposito di Vaticano, un approfondimento invece pagina 18 di Repubblica di Claudio Tito, celibato e donne prete, paura in Vaticano per lo scisma tedesco, la Germania è il fulcro del movimento che vuole rinnovare la Chiesa, i vescovi preparano un documento e cercano un'intesa con i protestanti, Bergoglio al lavoro per evitare una dolorosa frattura. Sicuramente avete sentito settimana scorsa Papa Bergoglio è intervenuto sul tema delle donne, non però parlando di celibato, ma dicendo che le donne dovrebbero essere più rappresentate nelle gerarchie ecclesiastiche. Le religiose sono circa il 50% dei religiosi totali, ma come sapete nelle gerarchie ecclesiastiche non sono rappresentate. Dal cardinale Marx a Monsignor Betzing, chi guida la svolta? Il sinodo in Germania, questo ce lo racconta invece Paolo Rodari nella stessa pagina, i tedeschi sono favorevoli al sacerdozio femminile e alla benedizione delle unioni omosessuali. E poi, visto che parliamo di Vaticano, un approfondimento sulla vicenda di Cecilia Marogna, che era la super consulente in particolare di ex Monsignor Becciu, viene chiamata qui Lady Vaticano tra Londra e Dubai. Massimiliano Coccia racconta gli strani viaggi raccontati sui social. La serie di inchieste che Repubblica chiama Long Form, sono 4 pagine ogni domenica, questa settimana dedicata all'inchiesta sul marciatore italiano Alex Schwarzer e sul complotto che lo ha distrutto per aver infranto l'omertà dell'atletica, dei record e dei signori del doping, la gloria e il fango. Dalla Stampa vi segnalo una intervista di Marco Zatterin, corrispondente per La Stampa da Bruxelles, a Jean-Claude Juncker, ex presidente della Commissione europea, fu presidente dal 2014 al 2019. Il MES, dice, può aiutare l'Italia. Sul Covid l'Unione Europea doveva essere più unita. E anche qui, come ho detto prima commentando l'editoriale di Stefano Feltri, è proprio il senno del poi. Vediamo di dimostrare più unità adesso. L'ex presidente della Commissione ha fiducia in Conte, l'idea di Europa di Salvini incompatibile con il partito politico, con il Partito Popolare Europeo, evitare un nuovo lockdown. un aggiornamento su una vicenda che, ricorderete, ha conquistato le prime pagine dei giornali per molti giorni, 2 mesi fa, e poi è sparita. E oggi Laura Anello da Messina torna su questa vicenda, il cosiddetto giallo di Caronia, ritardi, superficialità e una catena di errori. Su Viviana Parisi, mamma di Gioele, lei aveva 43 anni, lui 4, sono morti entrambi, non ci sarà mai verità, questa l'opinione. E poi vi segnalo, prima della pausa, dell'aggiornamento sulla viabilità, due lunghi articoli dall'estero. Da una parte quello che sta succedendo in Bolivia, le ferite aperte dell'America Latina, indigeni contro ricchi, il fantasma di Morales nella Bolivia al voto, e l'altro approfondimento che mi sono persa in questo momento, ve lo dico dopo l'aggiornamento sulla viabilità, ci sentiamo tra un attimo. In primo piano. Eccomi, scusatemi, l'altro articolo che volevo segnalarvi è un'intervista di Giulia Zonca a Benedict Savoy, che è una storica dell'arte, che spiega questa questione del razzismo, dell'arte razziata, perché il presidente francese Macron ha fatto votare una legge per riportare le opere ai legittimi proprietari. Sono finora 27 quelle tornate in Benin e Senegal. È una questione che naturalmente ha a che fare, ne sappiamo qualcosa noi, con l'arte razziata dall'Italia in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale, ma c'è anche questo tema dell'arte appunto razziata dall'Africa. Parla la specialista che, su incarico di Macron, ha redatto la lista di 90.000 oggetti che la Francia renderà all'Africa. Dalla stampa vi segnalo l'altro tema dell'America Latina, che riguarda il Cile tra piazze e urne, cambiamo la Costituzione, l'anniversario delle manifestazioni alla vigilia del plebiscito sulla legge fondamentale che appunto viene sottoposta a una sorta di referendum. Dal Messaggero, è il giornale che dà più spazio a questo, naturalmente, visto che è appunto il quotidiano principe della capitale, la questione Calenda. Carlo Calenda ha registrato il sito Calenda Sindaco e questa sera dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale in TV da Fazio della sua candidatura appunto a sindaco di Roma. Le elezioni per i comuni ci saranno nella primavera del 2021. Ma passiamo ai supplementi della domenica e, come sempre, iniziamo dal domenicale del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola 2 e parte da una citazione di Marco Aurelio. Siamo in questo mondo per aiutarci l'un l'altro, come piedi, mani, palpebre, come i denti di sopra e di sotto. Non posso perciò sentire il mio simile come nemico. Quello che ci suggerisce l'imperatore romano Marco Aurelio nei suoi ricordi, che in realtà sono colloqui con se stesso, è un dato a cui non badiamo. La struttura del nostro corpo è tendenzialmente duale. Due, infatti, sono i piedi, le mani, le palpebre, le orecchie, le arcate dentali e così via. Gli stessi organi unici, come il cervello e il cuore, hanno il compito di coordinare la necessaria duplicità. Similmente, la vita di una persona è ferita quando questa dualità si incrina o si spezza. Può una sola mano applaudire? Un solo occhio o orecchio rendono meno intense le percezioni e una sola gamba inceppa il nostro procedere. La pienezza è dunque nell'incontro con l'altro simile a te, come accade nell'Adamo biblico che, pur avendo Dio e l'intero mondo a disposizione, giunta alla sera della sua giornata, si sente solo perché, così l'ebraico originario della Genesi, non aveva un aiuto che gli stesse di fronte, gli occhi negli occhi. Ecco allora il monito dell'imperatore filosofo: non sentire mai l'altro come nemico o contendente. C'è un bellissimo verso del poeta francese Paul Éluard: noi verremmo alla metà, non a uno, ma a due a due. Noi verremmo alla meta, scusate, non a uno, ma a due a due. E a proposito di corpo umano, continua la serie dei motori della vita. Questo è il sesto di una serie di articoli dedicati appunto ai motori della vita. I precedenti sono stati dedicati a cuore, polmoni, fegato, sangue e pelle, e questa settimana sono le ossa. Meravigliosi scheletri nell'armadio. Le 206 ossa umane studiate in anatomia hanno ispirato anche la cultura. Le ritroviamo in arte, letteratura, cinema, musica e religione, ci racconta Vittorio Lingiardi. E poi un lungo articolo di Gino Ruozzi, che è una recensione del primo volume delle opere di Gianni Rodari, che sapete è vissuto tra il 1920 e il 1980, quindi nel centenario della nascita che cade quest'anno e a 40 anni dalla scomparsa, un meridiano celebra il grande scrittore che non fu solo un autore per bambini. E Gino Ruozzi appunto ci racconta le favole dell'Esopino cosiddetto, cioè piccolo Esope, ma in realtà forse piccolo grande Esope. Gianni Rodari, credo veramente un autore, forse non è neanche giusto dire da riscoprire, non va riscoperto, ma continuamente letto e riproposto. Poi vi segnalo invece la recensione di Vincenzo Barone all'ultimo libro di Carlo Rovelli, pubblicato da Adelphi, che si intitola Helgoland. È naturalmente un libro, come quasi come tutti i libri, non quelli tecnici di Carlo Rovelli, di divulgazione scientifica, quindi di fisica quantistica in particolare. Il titolo della recensione è L'isola che non c'è? Forse c'è. Dipende. Nel suo ultimo libro Carlo Rovelli ci guida alla scoperta di un mondo pieno di mistero e fascino, dove la realtà è fatta di relazioni prima che di oggetti. E poi questo è interessantissimo, è un'anticipazione del libro che sarà in libreria il 27 ottobre. Le persone che hanno più o meno la mia età credo ricordano, forse anche come un incubo, il cubo di Rubik. E qui Erno Rubik, che è l'inventore del cubo di Rubik, il cubo io, storia del rompicapo che ha incantato il mondo e del suo inventore. Piacere, io sono l'inventore del cubo, il rompicapo più famoso del mondo, nel racconto del suo geniale creatore, dall'idea iniziale alle difficoltà per metterla in pratica fino al successo. E in vista dell'uscita di questo libro, ieri sui social ho visto questa vignetta dove che era intitolata Ogni problema c'è una soluzione, e semplicemente c'era una persona che dipingeva del colore giusto le sei facce del cubo di Rubik, che naturalmente invece vanno ricomposte perché è fatto di nove piccoli quadratini per ogni faccia del cubo. Vi segnalo anche un bellissimo articolo di Nicole degli Innocenti da Londra, si intitola Non aprite quella porta, perché racconta, nonostante qualche gentleman's club abbia ora donne tra i soci, il Garrick, ad esempio, resiste. Un'imprenditrice sta facendo causa per discriminazione, ma è destinata a non entrare. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina ad un artista, questa settimana è Alessandro Papetti, e poi anche qui come consuetudine la prima parte del supplemento è dedicata a un unico tema, in questo caso questa settimana è la vera guerra fredda. Si tende sbagliando a pensare e scrivere che il conflitto in corso tra Stati Uniti e Cina per l'egemonia mondiale sia simile a quello combattuto tra Stati Uniti e Unione Sovietica tra il 1947 e il 1989, che è naturalmente la data della caduta del muro di Berlino. In realtà, per le dimensioni e le potenzialità della sua economia, Pechino rappresenta una sfida concreta al ruolo globale di Washington. Questa minaccia spinge la classe dirigente americana a cercare contromisure che molto probabilmente contribuiranno ad accrescere le tensioni tra i due paesi, e questo a prescindere da chi vincerà le presidenziali del 3 novembre, Trump o Biden. E poi vi segnalo anche una bella intervista di Lorenzo Cremonesi allo scrittore Galip Dalai, che ci racconta qualcosa, ci fa capire qualcosa della Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan, spiega la lettura allo studioso Galip Dalai, suo connazionale, persegue politiche di potenza legate alla storia recente, un po' come fanno altri paesi con un passato coloniale, vedi Russia, Francia o Regno Unito. Cerca un ruolo internazionale, in Libia ci è riuscito, in Africa quasi, ma con Francia e Grecia rischia grosso, questa l'analisi. E poi vi segnalo, perché questo è un tema che ci riguarda davvero tutti, Giuseppe Remuzzi, sempre sulla lettura, una dieta sana aiuta anche l'umore. Da qualche tempo l'attenzione dei ricercatori punta a mettere in relazione un'alimentazione corretta, per esempio quella mediterranea, con la salute mentale, oltre che quella fisica e quella sempre più importante intestinale, anche perché sapete che l'intestino è definito il nostro secondo cervello perché è l'organo con più cellule nervose appunto dopo il cervello. Vi segnalo solo, tempo proprio pochi secondi, la copertina di Robinson, che invece è tutta dedicata alla letteratura illustrata, graphic novel, chiamateli come volete, anche fumetti se volete, perché alla vigilia, nei prossimi giorni, inizia Lucca Comics. Era l'ultima segnalazione però per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.